son troppo bolognese, tu sei troppo napoletano, egli è troppo torinese. Voi siete troppo di Bari, se noi siamo troppo orgogliosi, loro sono troppo veneziani, anche dentro la stessa città, siamo sempre troppo lontani. E siamo sempre troppo romani, sì che siamo troppo milanesi, e lo vedi anche allo stadio, che siamo sempre troppo tesi. Siamo tifosi poco sportivi perché siamo troppo fiorentini, e la polizia controlla che non stiamo troppo vicini. E allora sono troppo bolognese, tu sei troppo cagliaritano, sventoliamo troppe bandiere col bastone nella mano, e diventiamo troppo violenti, e se non ci spacchiamo i denti, comunque ci promettiamo in coro che ci romperemo il culo. Democristiani, e sì che il tempo passa, siamo ancora troppo italiani.